Grazie per dare la possibilità di una visibilità di una vertenza estremamente delicata. Allora, i 76 operai della Argol che si occupano della movimentazione del materiale aeronautico negli hangar di Fiumicino continuano ad essere minacciati dal licenziamento. Un licenziamento che dovrebbe concretizzarsi qualora non si riuscisse in qualche maniera a svoltare la vertenza, e quella si renderà concreto dal 1° di febbraio. Pertanto i lavoratori sono minacciati al licenziamento in quanto la società Argon, non avendo rinnovato l'appalto della movimentazione negli hangar del materiale aeronautico, li metterà in mobilità appunto dall'inizio del mese prossimo. Alitalia non intende assumerli e al contrario li ha già sostituiti con lavoratori a tempo determinato, quindi precari, sottopagati e senza diritti al posto dei lavoratori stabili. I lavoratori continuano nelle mobilitazioni, la scorsa settimana sono stati per più di 4 giorni incatenati presso lo scalo, al terminal T1, le partenze nazionali e internazionali, per manifestare contro la scelta di Alitalia di disattendere una delle poche tutele, norme che sanciscono appunto delle tutele per i lavoratori del comparto del trasporto aereo ormai liberalizzato da anni. E altri 3 lavoratori invece ormai si avviano al 6° giorno consecutivo, sono saliti su un traliccio davanti all'hangar nell'area tecnica di Fiumicino e continuano a stazionare su questo traliccio appunto per manifestare contro le disposizioni di Alitalia e contro l'indifferenza finora mostrata dalle istituzioni. Nelle prossime ore ci sarà un incontro presso la Regione Lazio, ci auguriamo che la rappresentanza della Regione Lazio non abbia convocato le organizzazioni sindacali solo per rappresentargli la volontà di avviare o la cassa integrazione o la mobilità, perché in questo caso non si dovrebbe parlare di ammortizzatori sociali, ma soltanto di bisognerebbe ribadire il diritto al lavoro. Il lavoro c'è, non c'è crisi, è semplicemente un'opportunità che Alitalia sta cogliendo per sostituire, come dicevo, questi lavoratori, e abbiamo più volte manifestato e richiesto alle istituzioni di imporre alla cordata italiana il rispetto delle tutele e delle regole, anche perché qualora venisse cancellata la clausola di salvaguardia sociale, i licenziamenti dei lavoratori Argol sarebbero soltanto la punta di un iceberg. A breve avremmo migliaia di licenziati sia a Fiumicino sia negli altri aeroporti italiani. Il ministro Passera continua a tacere, nonostante invocato da più parti ad aprire un confronto, un tavolo su una vertenza estremamente delicata. Un ministro che un giorno sì e l'altro pure dichiara che si sta adoperando per il rilancio del paese, ma che non riesce, nonostante sia stato lo sponsor della privatizzazione all'Italia, ad imporre alla cordata di imprenditori con la quale ha attivato appunto la privatizzazione dell'Italia il rispetto delle regole, quindi la tutela del lavoro lì dove la crisi sicuramente non lo ha messo in discussione. Per adesso il presidente della Regione Lazio Polverini si è attivata, ma non ha preso impegni formali per ribadire la necessità di rilanciare l'occupazione dell'aeroporto di Fiumicino, nonostante lo stesso presidente della regione abbia annunciato ingenti investimenti per l'ampliamento della pista. Quindi addirittura si parla di 14 miliardi di euro che verranno investiti, capitali pubblici e privati, sull'aeroporto di Fiumicino, il doppio di quelli stanziati per il raddoppio dello stretto di Messina, un'opera faraonica che però, se questo è, dovrebbe poggiare ancora di più, secondo le intenzioni patronali, sul lavoro precario e sullo sfruttamento dei lavoratori. I lavoratori dell'Argo proseguono, dicevo, le mobilitazioni, oggi manifesteranno in occasione dell'incontro davanti alla sede della Regione Lazio. Nelle prossime ore resteranno anche davanti alla sede del Ministero dello Sviluppo Economico, quindi del Ministro Passera, e venerdì sciopereranno in occasione dello sciopero generale indetto da alcune sigle dell'organizzazione di base e in occasione anche dello sciopero ribadito a livello regionale per il trasporto aereo da CGL, CISL, UIL e UGL e metteranno in atto anche ulteriori iniziative per rendere sempre più visibile ormai nelle fasi finali una vertenza delicata per il loro futuro diretto, ma delicata per il futuro di migliaia di lavoratori. Senti Antonio, ti volevo chiedere una cosa. Nel corso di questi giorni si è parlato a lungo di liberalizzazioni, ovviamente in ogni forma, misura e salsa. Mi è capitato di leggere diversi accenni al fatto che insomma, molti commentatori si lamentavano sul fatto che il trasporto aereo in Italia non fosse stato eccessivamente liberalizzato dalle ultime norme emanate dal governo. La qualcosa insomma mi ha un po' incuriosito, perché mi domandavo in quale misura si dovessero operare queste liberalizzazioni e soprattutto in che maniera poi queste sarebbero andate a incidere sulle vite di chi lavora all'interno del trasporto aereo. Ecco, erano soltanto così dichiarazioni pro forma, perché quando si parla di liberalizzazioni bisogna metterci dentro un po' tutto, oppure c'è qualcosa di concreto in relazione al settore di cui tu fai parte? Ma è certo che certi appetiti padronali non saranno mai saziati, resteranno, però voglio dire, le liberalizzazioni del trasporto aereo hanno inciso e sono state attuate da oltre 10 anni. Ormai gli aeroporti italiani, anche i più importanti, se non sono stati già tutti privatizzati, sono in via di definitiva privatizzazione. Mi riferisco all'ultimo rimasto in ordine di tempo per importanza, l'aeroporto di Milano, su cui comunque incombe ormai e ha avviato il processo di privatizzazione, e lo sta facendo una giunta che aveva detto che insomma ne avrebbe fatto del mantenimento pubblico di alcune attività il cartello della propria propaganda elettorale. Comunque è anche lì avviata la privatizzazione, al contrario di quello che succede in importanti scali europei. La liberalizzazione degli aeroporti italiani ha inciso ancora di più, basti pensare, mi riferisco agli aeroporti europei, basti pensare che a Fiumicino, nonostante la legge imponga che siano almeno 3 gli handler che si fanno concorrenza e che si spartiscono le attività di carico e scarico bagagli, nell'aeroporto di Fiumicino sono addirittura 7 e prossimi saranno l'ingresso dell'8º. Insomma, voglio dire, le attività, non esiste un contratto nazionale di riferimento, in quanto i vettori applicano ormai il contratto che vogliono. C'è una legge che di fatto impedisce lo sciopero a corollario per consentire, appunto, che ha consentito negli anni la distruzione di ogni tutela sul lavoro e l'avvio delle privatizzazioni e delle liberalizzazioni. Insomma, è un settore su cui secondo me bisognerebbe fare un altro tipo di ragionamento. Dove e hanno portato e cosa hanno prodotto le liberalizzazioni attuate, quale miglioramento del prodotto per l'utenza e quale peggioramento per le condizioni dei lavoratori, e non solo quelle salariali e normative, ma ormai addirittura per l'aumento indiscriminato della precarietà e per la mancanza di tutele assolute per i cosiddetti garantiti, coloro che invece avevano un contratto a tempo indeterminato e che quotidianamente sono minacciati dai licenziamenti. A mio avviso la riflessione che bisognerebbe fare è questa: chi dice che il settore non è liberalizzato mente sapendo di mentire, insomma. Eh sì, no, era un'analisi che facevo anche mia nel corso di questi giorni scorsi, appunto mi incuriosiva, mi piace anche un po' incazzare il fatto che poi si usino sempre le stesse parole d'ordine, anche quando poi è evidente che c'entrano poco, molto poco su Alitalia e più in generale sul trasporto aereo. Ecco, magari aprire un discorso di questo tipo mi sa che sarà un po' difficile con l'attuale ministro delle infrastrutture, però come dire, il tentativo andrà fatto. Anche perché, insomma, voglio dire, il quadro politico che lo sostiene non mette in discussione, non affronta nessun tipo, se sentiamo Bersani dire che bisogna sostenere il governo senza se e senza ma di riservarsi solo di continuare a esprimere le proprie idee, il che significa comunque sostenerle, ma nella peggiore legale dire di essere d'accordo o meno rispetto a certi provvedimenti, certo sarà difficile, però ritengo pure che la condizione materiale del settore lo rivendica e penso che sarà urgente riconsiderare alcune politiche, perché io ritengo che siamo non molto lontani da un collasso, dal collasso del sistema, ripeto, sia dal punto di vista degli interessi dell'utenza, sia dal punto di vista appunto per quanto riguarda gli interessi dei lavoratori che operano nel settore. Siamo al collasso, siamo alla cancellazione delle ultime regole e poi non so, due mondi separati, gli interessi dell'utenza e quello dei lavoratori. Purtroppo spesso ci hanno abituato a considerarli separati, ma a mio avviso non è così e purtroppo anche i livelli di sicurezza che si garantiscono negli aeroporti sono strettamente legati con le modalità di trattamento dei lavoratori. Insomma, ci sarebbe da aprire un dibattito, ci sarebbe da aprire effettuare un approfondimento, ma sa di fatto che c'è una cosa è sicuramente certa: le liberalizzazioni sono già state effettuate e hanno già prodotto il disastro che è sotto gli occhi di tutti e che non accenna veramente ad essere messo in discussione per il momento. No, e questo poi insomma riguarda anche tutti gli altri settori, sia del trasporto sia non, e poi quando succede qualcosa l'importante è trovare un capitano pazzo, comunque qualcuno a cui dare la colpa di tutto quanto. Va bene Antonio, ti ringraziamo, se non hai altro da aggiungere noi a questo punto ci daremo appuntamento per i prossimi giorni. Hai ricordato l'incontro con la regione, poi insomma sia da venerdì in poi altri appuntamenti sia di piazza sia di non, e speriamo di incontrarci di persona, ecco, verso il weekend, opereremo in tal senso. Va bene, a presto, grazie. Ok, un abbraccio, ti chiederei di restare un secondo in linea in privato se puoi. Va bene. Susan takes